La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24. Buon 2 giugno. E in questo 2 giugno, anniversario della scelta contrastata ma poi vittoriosa alla fine della scelta referendaria degli italiani nel 1946 a favore della forma repubblicana al posto della monarchia, con il no ai Savoia per le responsabilità nel fascismo, le leggi razziali, il disastro della seconda guerra mondiale, la fuga da Roma l'8 settembre, ho pensato, sulla scorta di un libro che mi è molto piaciuto, fare insieme a voi una riflessione civile, tra virgolette, tenuto conto appunto del significato civile di questo ricordo di una scelta fatta dagli italiani. Ed è un ricordo che va sempre, per così dire, rinnovato, anche perché non c'è niente di più inutile a volte di Pantheon non frequentati e non aggiornati, non spolverati. Allora vi dico subito di che cosa parliamo, perché il libro in questione, ve ne cito il titolo, lo farò come sempre quando parliamo di libri più volte nel corso della trasmissione invitandovi a leggerlo, il titolo è Il virus totalitario. Guida per riconoscere un nemico sempre in agguato. L'editore è Rubettino. L'autore è un giornalista, scrittore italiano, giornalista del Corriere della Sera, si occupa da molti anni, oramai prima si è occupato di interni, poi di politica, di cultura, ha scritto molti saggi sui temi della libertà soprattutto. Il fantasma della libertà è un libro che ormai ha 17 anni di coautore, ma veramente bellissimo. E con questo libro, che io vi consiglio di leggere, vi propone una specie di autoanalisi, perché il totalitarismo che siamo abituati ad associare al terribile Novecento, in cui l'Europa regala al mondo intero centinaia di milioni di vittime attraverso le ideologie totalitarie rosse e nere, in realtà non è una parentesi chiusa. 1, 2, è un virus permanentemente in agguato. 3, assume forme diverse ma con caratteristiche simili. 4, bisogna usare la nostra testa, la parte razionale, la parte della corteccia cerebrale, non la parte dell'amigdala, quella che ci unisce nelle reazioni istintive ai primati, dagli alberi, sugli alberi da cui discendiamo, perché la differenza è proprio questa. Dal punto di vista di ciò che sappiamo delle neuroscienze, il totalitarismo fa appello all'amigdala, cioè alla parte, diciamo così, istintiva, irragionevole, identitaria del nostro sistema neurale, mentre invece bisogna usare quello che col tempo si è evoluto per la parte del conto, lo sconto e così via. E non è naturalmente quella dell'autore una visione neurobiologica, ma unisce in questo libro, che ha dei solidi fondamenti politologici e filosofici, degli strumenti per capire perché alle due grandi totalitarismi del Novecento, quelli rossi e quelli neri, se n'è aggiunto un terzo chiaramente individuato, cioè quello islamista. Ma attenzione, oltre a questo, sul controllo dei fini ultimi, che è uno degli strumenti principi del totalitarismo, molte diverse forme del virus sono intorno a noi. Facciano appello alla nazione, quindi al nazionalismo, allo sciovinismo, facciano appello allo statalismo, facciano appello all'antiglobalizzazione, facciano appello all'estremismo ambientalista, che diventa non uno strumento per l'equilibrio tra i processi di trasformazione delle risorse, le loro scorte e così via, ma diventa un fine anteposto a tutto. Ecco, moltissime delle forme intorno a noi, compresi gli utilizzi magari incontrollati di alcune forme di comunicazione virale indotta nelle democrazie attuali, sono una minaccia di virus totalitario. L'autore è Dario Fertilio, che io ringrazio molto per tutto quello che ha fatto nella sua carriera e per libri di questo genere. Grazie Dario di essere con noi. Grazie a te e a tutti quanti i nostri ascoltatori. Perché l'hai scritto? Era una specie di impegno morale che avevo, perché sapevo bene di scrivere una cosa che va un po' controcorrente, può sembrare anche provocatoria un po' troppo ambiziosa, però d'altra parte non potevo farne a meno, ce l'avevo lì da tempo, tanti indizi diversi avevano concorso a farmi avviare verso questa conclusione che tu hai in maniera perfetta riassunto. E quindi mi sembrava un messaggio fondamentale, non per la lettura del momento, perché sappiamo bene che i libri vanno e vengono come fiori che sfioriscono in una mezza stagione, ma perché forse in prospettiva potrebbe essere utile anche a qualcun altro che potrebbe poi proseguire attraverso queste indicazioni e magari ampliare ancora questo ambito della ricerca. Tu lo sai che sia i difensori del fascismo e del comunismo, cominciamo da lì, mentre rifiutano quella indiadi che tu metti in un capitolo del tuo libro, dicendo a un certo punto Mussolini afferma che è il fascismo, il totalitarismo meglio realizzato, Gramsci gli risponderà con grande durezza dicendo che non se ne parla nemmeno perché è comunismo. In una certa lettura revisionista italiana, perché i conti con la storia sono stati lunghi e non ancora compiuti secondo me, tu lo sai che fior di intellettuali da una parte e dall'altra, eredi di quelle scuole, rifiutano quella idea che tu semplicemente brutalmente metti lì per ricordarla. È una pagina chiusa della storia culturale italiana o no? Tu per Indiadi intendi l'Indiadi autoritarismo o totalitarismo? Esatto. Se cioè, appunto, qui è giusto specificare, se cioè il fascismo sia stato un semplice regime autoritario in cui il capo, Mussolini in questo caso, chiedeva semplicemente ai suoi cittadini, ai suoi sudditi, di non disturbare il manovratore e di obbedire alle leggi, o se invece fosse stato un regime davvero totalitario come il comunismo bolscevico e il nazionalsocialismo tedesco, che non chiedeva soltanto l'adesione più o meno passiva agli ordini del capo, ma richiedeva una vera e propria trasformazione interiore per essere l'uomo nuovo della nuova razza o classe superiore. E la mia risposta è quella che è intermedia. Cioè, a me sembra che il fascismo sia rimasto un regime essenzialmente autoritario, certamente un regime che ha avuto poi delle forme repressive, violente e assassine, ma essenzialmente si è trattato di un regime autoritario che si è trasformato progressivamente, proprio a me sembra, per questo influsso virale del totalitarismo nazionalsocialista che progressivamente lo ha posseduto e che simbolicamente almeno nel 1939 con le leggi razziali si è avviato a diventare un vero e proprio totalitarismo. Quindi il fascismo in sé per sé racchiude, mi sembra, tutte e due le fasi del virus, quella infettiva, che è quella, chiamiamola così, della presa del potere e del suo stabilirsi, e quella vera e propria virale che coincide con l'adesione non più critica ai principi razzisti del nazionalsocialismo. Per un liberale, dice a un certo punto, basta uno dei soli sei punti fondanti che a un certo punto ricordi per cosa sia il totalitarismo, quelli riassunti da Friedrich Brzezinski. Dice ne basta uno, cioè il dominio totale dei mezzi, questo a un liberale basta per dire no, ma poi ce ne sono altri cinque. A un certo punto invece nel libro, più avanti, a pagina 197, a proposito del fatto che il totalitarismo poi si è sempre declinato fino a questo momento anche come un mito di superiorità biologica e un mito di corpo collettivo biologico, cioè un olismo sociale in cui però il forte appello è quello alla trasumanazione in un enente collettivo che ha fini etici superiori. Citi poesie giovanili del giovane Marx, di quelli che abitualmente in Italia è meglio non citare perché ci sono reazioni scomposte che vengono da fior di accademici. Io le leggo ai nostri ascoltatori. Marx confessava a se stesso, virgolette, un trono mi voglio costruire, fredda e immensa deve essere la sua cima. Mondi interi vorrei distruggere a forza perché non posso io stesso creare. Le braccia allaccerei intorno al muto essere e abbracciandomi dovrebbe essere muto, svanire e poi giù, calare nel nulla, totalmente sprofondare. Non essere sarebbe vita. Allora, perché questo punto, che in realtà ha un fondamento sia nella filosofia dell'idealismo, A, B, qualunque sia la sua declinazione rossa e nera, e che poi diventa nella prassi concreta dei totalitarismi, quello che descriveva un grandissimo intellettuale come Michel Foucault, che non a caso citi quando diceva qui una frontiera nuova del totalitarismo è la biopolitica, e che noi vediamo anche nell'ISIS, il controllo totale delle vite fino alla decapitazione di chi aderisce. Perché questo presupposto si stenta ancora oggi tanto a riconoscerlo come elemento comune di tutti i totalitarismi? Certamente fa un po' paura anche la poesia che tu hai letto. È giusto precisare che Marx l'ha scritta quando aveva 16 o 17 non anni. Non c'è dubbio. Però non c'è dubbio che c'è qualcosa che attira gli spiriti, diciamo così, totalitari, e cioè l'idea apocalittica che il mondo, il vecchio mondo, debba finire. Trovo anzi, oltre alla tua citazione di Marx giovane, la poesia di questo sovrumanesimo, accostarlo a un altro grande teorico e pratico totalitario, cioè Che Guevara. Anche Che Guevara, nel suo diario della motocicletta, conclude con una stranissima visione apocalittica del mondo vecchio che deve cadere in fiamme mentre uno nuovo dovrà nascere. Sembra che ci sia quasi un ideale passaggio di testimone tra Marx e Che Guevara. Ecco, io credo che dietro questo c'è il piacere, lo spirito proprio che fa parte di questo virus totalitario, della distruzione del vecchio, cioè ci si vuole sbarazzare di quello che siamo stati e dare il via a una fase nuova, a un uomo nuovo, che dovrebbe essere più puro, come così come il totalitarismo nel suo sistema organico lascia pensare. Quindi questo da un lato accende queste pulsioni, questi desideri di distruzione, e dall'altro di costruzione, cioè sono due momenti che vanno insieme. Distruggiamo il vecchio e creiamo una società totalmente nuova, che proprio per essere nuova e pura deve essere spietata nei confronti di tutto quello che è il passato. Secondo Michel Foucault, il filosofo libertario che tu hai citato, in tutti i totalitarismi, lui specificava nazismo e comunismo, sì, che erano quelli sotto mano, sono intimamente razzisti, cioè la visione di una classe, di una razza, di una religione, di un'etnia superiore è comunque una forma di razzismo, perché condanna tutti gli altri a essere una sottorazza, a essere una categoria destinata a essere giustamente soppressa. Due esempi dal tuo libro per far capire come si possa, tra virgolette, transitare dall'uno all'altro totalitarismo, con due percorsi completamente diversi. Un intellettuale tra le migliaia che nel Novecento europeo finisce per sostenere o il comunismo o il nazismo, e nel suo caso entrambi in periodi diversi. Werner Sombart, cioè chiunque abbia studiato qualche libro di storia economica e di interpretazione sociale dello sviluppo del mercato ha Sombart, come tanti altri, ma insomma grandissimi nomi, e questo è il primo esempio. Però un esempio che seguiranno intere generazioni di intellettuali nel mondo avanzato in Europa, meno negli Stati Uniti, nel mondo anglosassone, ma nel Novecento. Il secondo, di genere tutt'altro, completamente diverso. Terrorista, uno dei più famosi terroristi, Carlos, marxista fino al midollo, che poi diventa islamico vantando la coerenza degli stessi principi. Perché è così stato, tra virgolette, facile questo fenomeno di ibridazione? L'idea del virus di cui stiamo parlando è in qualche modo ispirata a quelle ricerche cui tu stesso facevi cenno, secondo le quali noi, che siamo anche carne, sangue e ossa, come ben sappiamo, siamo in qualche modo portati, abbiamo una tendenza a essere influenzati e a entrare in una visione precostituita, cioè abbiamo alcune dipendenze organiche e fisiologiche che ci portano verso un desiderio di totalità, di tranquillità, di pace, quasi di annullamento in una visione superiore. Quindi questo è, possiamo dire, la premessa. Quando tu citi per esempio Sombart, oppure anche Carlos, il terrorista, in due momenti diversi, che cosa hanno in comune? Entrambi sono stati, secondo il mio modo di vedere, infettati da questo virus totalitario e adesso completamente soggiogati. Solo che in momenti diversi della loro vita credono che la realizzazione pratica, il trionfo di questo totalitarismo, non sia più quello che avevano creduto prima, cioè nel caso di Sombart il marxismo e nel caso di Carlos anche il marxismo, ma qualcosa di nuovo che dovrebbe portare nuova forza, nuova linfa a questo sogno. E Sombart immagina che questa forza primigenia del comunismo possa essere di fatto meglio travasata è portata al trionfo attraverso il fascismo, il nazionalsocialismo. E invece Carlos, in tempi molto più recenti, crede che quella spiritualità che era mancata al marxismo invece possa appartenere all'islamismo, intendendo per islamismo quindi non una religione vera, come noi potremmo immaginare, legata a una concezione di Dio, ma intendendo per islamismo una forza terrena in grado di conquistare il mondo. Ecco che quindi in Carlos, nel famoso terrorista, c'è il trapasso dal secondo al terzo totalitarismo, o se vogliamo dal primo al terzo totalitarismo, cioè dal comunismo all'islamismo. Allora, adesso abbiamo un minuto di informazioni sul traffico, ma quando torniamo andiamo a un punto che non possiamo non toccare, e cioè il virus del totalitarismo c'è nelle liberal democrazie, nelle democrazie di mercato del mondo avanzato oggi. In che forme? Se non ne sono immuni, il libro dice no, non ne sono affatto immuni. La versione di Oscar. Eccoci tornati, cari ascoltatori, questo 2 giugno, anniversario della scelta repubblicana degli italiani. Almeno quel referendum è stato rispettato alla politica, non come tanti altri in cui ne hanno fatto polpette, da quello per esempio della RAI a tanti altri. E stiamo parlando in questa giornata civile di un libro di grande riflessione civile, abrasivo, fatto apposta per riflettere, sapendo che sicuramente qualcuno dei tanti elementi citati mette in discussione magari convinzioni di ciascuno di voi, comunque la pensi. Questo libro si intitola Il virus totalitario, guida per riconoscere un nemico sempre in agguato. Rubettino è l'editore, l'autore Dario Fertilio del Corriere della Sera che è con noi. Eravamo arrivati, dopo una brevissima cavalcata dai tre totalitarismi, rossi, neri, l'islamismo, a una domanda fondamentale, però, per evitare concezioni di, per così dire, superiorità e di innatismo di superiorità nei confronti del sistema liberal democratico. Tu dedichi un bel po' di analisi verso la fine del libro alle forme, i modi, i rischi in cui il virus totalitario si manifesta anche nelle società liberal democratiche. Quali sono? La mia impressione, avendo messo insieme una serie di indizi in tutti questi casi di totalitarismo che abbiamo visto, è che come di virus ce ne sono tantissimi, così noi non possiamo autolimitarci ai tre grandi che abbiamo visto, che tu adesso hai citato. Ce ne sono altri in continua evoluzione. Ne citerei due per avere un punto di riferimento: il terzo mondismo sudamericano e il nazicomunismo post-sovietico. Si tratta di forme che io definisco pre-totalitarie perché non hanno preso possesso in maniera compiuta e definitiva di un pezzo importante del mondo, però aspirano a diventare egemoni in una loro area geografica almeno. E l'Occidente è un'altra zona che aspira, come sappiamo da sempre, a essere egemone nel mondo. E naturalmente il virus, se esiste, e io credo che esista, non può che essere molto interessato all'Occidente, perché se riuscisse a infettarlo in maniera significativa, potrebbe forse imporre una nuova egemonia globale, dato che, come sappiamo, l'Occidente è punto di riferimento un po' per tutto il mondo. E allora dobbiamo anche considerare che il virus è completamente amorale, non è assolutamente interessato ai contenuti di ciò che conquista. Cioè, per intenderci, il virus si può servire del Corano, si può servire della Bibbia, si può servire del Capitale di Marx, si può servire del Mein Kampf di Hitler, ma si può servire, e questo è una cosa che davvero può far tremare, anche della democrazia. Persino la democrazia può essere strumento di sua espansione. Come può manifestarsi? Attraverso una serie di punti di forza che conquista e che mette insieme nel tentativo di creare un controllo, un'egemonia ideologica. E di conseguenza, quali sono questi punti che a mio giudizio sta cercando di conquistare in Occidente? Beh, da un lato è l'ingegneria sociale, cioè il fatto che secondo questa visione pre-totalitaria, che io chiamerei egemonica, egemonista, cioè nel senso che cerca di imporsi attraverso l'Occidente a tutto il mondo, È l'idea quindi che la società non sia una formazione spontanea che deve essere assecondata e alimentata attraverso autonomie, attraverso leggi, attraverso tradizioni, ma debba invece essere formata un po' a tavolino. Ed ecco quindi che tutte le forme di ingegneria sociale che cercano di dire adesso vi diciamo noi come dovreste essere, tutte le quote, tutte le forme di pressione sociale a conformarsi a un certo modello, questo è tipico della fase pretotalitaria. Aspetta però, perché l'obiezione puntuta che viene diciamo dal mondo collettivista, socialista, progressista, ribalta questa tua cosa e dice no, cari amici, voi non state contando le cose giuste. La vera minaccia totalitaria, virgola, che è al servizio di progetti di reazione di elite finanziarie mondiali, chi ha questo fine, però unisce la capacità di saper far leva sugli scontenti della globalizzazione o dei terrorizzati dell'Islam e dell'immigrazione, le vittime della crisi, coloro che sono colpiti dagli effetti del commercio mondiale sulle qualifiche a basso valore aggiunto nel mercato del lavoro, e che hanno realizzato una capacità di influenza nell'orientamento delle opinioni pubbliche attraverso l'utilizzo dei media, di piattaforme tecnologiche, eccetera, eccetera. Ed è la base radicale, per esempio, della critica al fenomeno Trump negli Stati Uniti. Questo pericolo Grande Fratello, utilizzato dalle elite paradossalmente per formare la coscienza e gli istinti di voto di chi è del tutto escluso e lontano dall'elite, è un virus totalitario come sostengono alcuni o no, secondo te? Secondo me è una possibilità, non bisogna considerare che ci sia soltanto un rischio, ce n'è più di uno. Probabilmente questa idea che il nazionalismo sovranista, mercantilista, quello che in questo momento fa riferimento a Trump e anche ai suoi seguaci occidentali, effettivamente può essere un rischio, nel senso che può concretizzarsi in qualcosa di ideologicamente forte. Al momento mi sembra più una forma un po' dadaista di spiazzamento dell'avversario, non mi pare che abbia ancora ottenuto una vera impostazione ideologica. No, anche perché se Trump è l'idea o la sintesi di un meccanismo di controllo, lui mi sembra più scoordinato di tutti, ma questa è la mia opinione personale. Sì, io la condivido, mi sembra più un distruttore in questo momento e anche in parte contraddittorio che un vero costruttore, ma comunque noi non possiamo mai escludere niente, quindi trovo che la critica radicale a questa impostazione che possiamo definire sovranista, protezionista, possa avere una sua ragione d'essere. Ma il pericolo maggiore in questo momento è l'egemonia di segno molto diverso, e cioè quella che vorrebbe, attraverso, come dicevo, un'ingegneria sociale e poi anche una moltiplicazione dei diritti. Questa è una cosa che è sotto gli occhi di tutti. Ormai i diritti si moltiplicano, i desideri, anche più soggettivi, diventano diritti. E quindi qual è la conclusione? Che siccome tutti i diritti non possono essere praticati, altrimenti si cadrebbe nella babele totale, la moltiplicazione dei diritti prevede l'intervento di un buon legislatore, una persona al di sopra delle parti, il famoso buon legislatore di Rousseau, il quale dice: bene, allora i diritti ammessi sono questi, gli altri per favore no, perché non si possono. Quindi di fatto la moltiplicazione dei diritti prelude al controllo autoritario della società. È questo. Poi c'è la biopolitica che tu prima citavi, e cioè le bioscienze e la manipolazione della vita sono un punto molto importante di questa forma di controllo pretotalitario, perché sostanzialmente prendono possesso persino della vita e della morte, e persino delle nascite, persino di tutte le forme di protezione, quelle che sono protezione della vita, che però diventano anche controllo. Quindi abbiamo una prospettiva in questo senso molto, per esempio la famosa e discutibilissima teoria del gender, per cui anche la distinzione tra i sessi può essere manipolabile. Allora, come vedete nel libro di Dario Fertiglio, titolo Il virus totalitario, guida per riconoscere un nemico sempre in agguato, non ci si tira dietro, indietro di fronte a qualunque critica anche del mondo liberal democratico. Ricordatevi però, io per questo vi chiedo di leggerlo, che c'è bisogno di stare con la mente sempre accesa su questi rischi. Perché altrimenti ci si ritrova poi come quel grande musicista Karlheinz Stockhausen, che di fronte alle due torri che scendevano abbattute dagli aerei dell'islamismo diceva: la più straordinaria opera d'arte di questo secolo. Ecco, cioè, tentiamo di tenere la testa accesa. Grazie a Dario Fertiglio, buon 2 giugno a tutti, continuate su Radio 24.